non sapevo che ti racconti. Ma insegnati. Va bene. E lui, Gian Maria. Ha un bel vecchia. Ma mi faccio sentire verso le 10. Anzi no, verso le 11 ti faccio sentire. Ehi a Gian Maria, va benissimo. Ok, ciao Gian Maria, ci risentiamo domani.